Pensate, il 9 dicembre del 94. Porca puttana, sono un sacco d'anni fa. I'm in the midst of strangers. Tornò in casa per provare a salvare la mamma in una casa in fiamme. Sono morti sia lui che la madre. Bless yourself, Garnet Silt. Bless me, mighty Jaja, bless me. Bless me, mighty Jaja, bless me. Bless me so that they can curse me. Bless me, mighty Jaja, bless me. Yeah. Father, they have dug their pits and are waiting to see me fall in it. Yes, they've got great power, so without your help, I know I suffer. Hear me while I call on you, and help me to conquer. Only you are fair, be with me everywhere. They're trying to see me fall, but with you, Jah, I stand tall. Jah bless me, bless me, mighty Jah Jah bless me, bless me so that they can curse me, bless me, mighty Jah Jah. It's growing, this love inside of me, oh and it's showing, shining so bright. It's growing, this love of mine, yes and it's showing, just can't hide. So long we've been together, can't keep you to myself. Got to share you with another, got to share you with someone else. It's growing, this love inside of me, oh and it's showing, shining so bright. It's growing, just can't hide. Come on, my brothers and sisters, let's not waste our time. We got to move together, let's synchronize our minds. It's growing, this love inside of me, oh, and it's showing, shining so bright. It's growing, showing, just can't hide. A prayer for you and a prayer for me, let's live in love and harmony, only love can set us free. It's growing, this love inside of me, oh and it's showing, shining so bright. Watch over our shoulders tonight and help us live our words tomorrow. Let's not forget where we're from, Father, show us the way to go. He said, I must love and feed my enemies and I'm gonna do it. He said, I shouldn't hate or grudge and I won't, not even for a minute. Let only truth come from my lips, bless our souls, cause without you we can't make it. Lord, watch over our shoulders tonight and help us live our words tomorrow. Let's not forget where we're from, for the show us the way to go. You're the wind beneath my wings, see me through all little things. You lifted me when I was down, now you have me standing on higher ground. Lord, watch over our shoulders tonight and help us live our words tomorrow. Let's not forget where we're from, for the show us the way to go. How excellent is thy name, deliver us from sin and shame. Out of the mount of babe and suckle in you of ordained strength. Oh, Jah, I'm depending on you. Oh, no other help I know. Oh, Jah, I'm depending on you. Show us the way to go. You said I must love and feed my enemies and I'm gonna do it. You said I shouldn't hate or grudge and I won't, not even for a minute. Let only truth come from my lips, bless our souls, Lord, without you we can't make it. Lord, watch over our shoulders tonight and help us live our words tomorrow. Let's not forget where we're from, Father, show us the way. Personale tributo a Garnet Silk, che appunto oggi avrebbe compiuto gli anni se il suo cuore non ce l'avesse strappato via prima. E allora gli andiamo de Otom, dai. Piano piano continuiamo, questo è Port Royal, tutti i mercoledì 21-23. Ah, quanti amorini col sottofondo di questa canzone. Chissà quante volte te lo dicono al giorno, ma te lo dico uguale ormai. Su quante compilation è finita questa canzone. Un attimo con te, per cercare di capire se ho una speranza, dico una soltanto, anche mezza, perché nel caso giuro me la giocherei. Bella sei bella, mi piace il tuo modo di parlare, di esprimere col viso situazioni in cui scandisci il tempo coi tuoi passi, attacchi alti così non scappi. Chi sta vicino non lo sa qual è la chiave per entrare in tutti i sogni che tu forse non mi vorrai dare. Risparmiami quei soliti, non ti conosco ancora bene, perché nel nostro caso non c'è voluto niente per innamorarmi di te. Non c'è voluto niente, un vero motivo non c'è, e questo è l'importante, che per innamorarmi di te non c'è voluto niente. Sai, ci vuole molto più tempo per poterlo dire faccia a faccia. faccia con cuore in mano. Sul pianerottolo di casa tu al terzo piano. Bella sei bella, mi perdo in mezzo ai tuoi capelli e mi ritrovo quando dici cosa hai. Ho perso il filo del discorso dentro ai tuoi piercing e ai tuoi sorrisi. Chi ti sta vicino non lo sa. Qual è la chiave per entrare in tutti i sogni che tu forse non mi vorrai dare? Risparmiami quei soldi. Anch'io sostengo Port Royal. Port Royal. Ciao, sono Bove di Gli Atom, anch'io sostengo Port Royal. Quando senza pensarci nemmeno dico solo lei. Legami tra i tuoi gatti pesanti, tra i maglioni invernali che non hanno ancora un posto dentro gli armadi. Giura che tu non vorresti vedere mai il nostro amore dato in pasto all'abitudine. Chissà se poi ti basto per davvero e senza una risposta scappi via. Ed io rimango fermo ad ascoltare qualcosa che non so spiegarmi. È come se avessi vissuto soltanto per te, se avessi vissuto soltanto per chiederti come vanno le cose, se hai trovato il parcheggio, se ti trattano bene dentro a queste ore. Pensami quando hai poco da dire, se ti senti diversa, quando emergi a fatica senza una risposta. Cercami dove tu non guarderesti mai, dove la sera sta abbracciando una vertigine. Chissà se poi ti basto per davvero e senza una risposta scappi via. Ed io rimango fermo ad ascoltare qualcosa che non so spiegarmi. È come se avessi vissuto soltanto per te, se avessi vissuto soltanto per te, se avessi vissuto soltanto per te. E allora salutiamo Osh direttamente dalla regia Smash, che questa sera ci sente dalla Calabria. Tutti gli amici di Telegram, perché su WhatsApp non ci potete scrivere, ma non potete scrivere a nessuno, quindi questa prima parte di selezione nasce perché io inseguo questo dischetto da un po' d'anni e se tutto va bene venerdì chiedo cosa lascerà il mio vecchio Bove. che sostiene Port Royal. Dopo il suo rumore me lo dovrebbe portare. Dove? Lo sentirete tra poco. Però poi davvero basta chiede, perché che palle. Nuova tune degli Otom. Ma ciao, davvero manca via Massena. Solo se ci sarai, crepuscolari come le illusioni, svanito il giorno, solo cattivi pensieri, il ricordo di un'estate che si arena sulla spiaggia, come collanine rotte sulla sabbia, rivivere il ritorno, come cambiamento, la partenza, come senza ritorno, alla fine dell'estate ti rimane dentro, il sapore delle libertà che in fondo hai scelto. D'estate non c'è tempo per la solitudine, la lasci a casa insieme a tutte le bollette, nelle giornate che trascorri sotto il sole puoi dimenticare tutte quante le promesse fatte. Ci sarò solo se ci sarai, ti chiamerò solo crepuscolari come le illusioni, svanito il giorno, solo cattivi pensieri, il ricordo di un'estate che si arena sulla spiaggia, come collanine rotte sulla sabbia, rivivere il ritorno, come cambiamento, la partenza, come senza ritorno, alla fine dell'estate ti rimane dentro, il sapore delle libertà che in fondo hai scelto. Manifestazione a sostegno del Brancaleone e tutti gli spazi occupati che rischiano lo sgombero. Dai! E mo ve l'ha detto pure il Bove, eh? Ci vediamo venerdì 5 aprile tutti a Montesagro, manifestazione a sostegno del Brancaleone e degli spazi sociali che non vogliono chiudere. E anzi, che palle, ancora. La vita in fondo ci insegna, è proprio così. Ciao una amici, sono di Andrea De Bove, di Otom. Ci vediamo il 5 per la manifestazione a sostegno del Brancaleone e tutti gli spazi occupati che rischiano lo sgombero. Dai, giornali, con lavori stagionali e un futuro più sembrano più tristi se... Ma hanno chiesto un pull up dalla regia. Lo fanno. Chissà perché le cose sembrano più tristi se viste dal retrovisore. La vita in fondo ci insegna, è proprio così, una questione di angolazione, intonazione. Guardo solo posti cani, cambio sui telegiornali, con lavori stagionali e un futuro più remoto di paesi tropicali che ti appannano gli occhiali, mentre mezzo mondo muore, l'altro mezzo è già in piscina e fa qualcina. Carino il nuovo istruttore a casa all'argentario, certo non è più quello di 10 anni fa, la luce, il microclima. Una possibilità di dire qualcosa di intelligente, nessuno la dà, e quando ce l'hanno tu vedi cafoni in ciabatte con l'artiglieria, mascelle rubate alla logopedia, vacanze a Ibiza che fa capodanno, che palle. In politica politicamente corretto per me ha rotto soltanto i coglioni. Con questo sistema non parli, è solo così. Puoi tenerteli tutti buoni, i pecoroni, che per fare i genitori con libretto di istruzioni ci bastavano i pizzoni. Per capire quei concetti non servivano dottori, solo amici e due portoni, mezzo litro di scela, quattro pile per sentire i della sol. Una possibilità di dire qualcosa controcorrente, nessuno la dà. Ce l'hanno, ti fanno canzoni depresse, soltanto il minore, più pusher che runner a Parco Sempione, il calcio, la moda, il vino francese, che palle. Una possibilità di dire qualcosa di intelligente, nessuno la dà. E quando ce l'hanno tu vedi cafoni in ciabatte con l'artiglieria, mascelle rubate alla logopedia, vacanze di pizza, che fa capodanno, che palle. Mascelle rubate alla logopedia. Che capolavoro! Grande Bove. E lo troviamo appunto. E ringraziamo ancora la disponibilità di Andrea, De Bove, di tutti gli 8 Ohm. Ma ringraziamo proprio gli 8 Ohm. Lo troveremo in piazza, no? Con noi a sfilare a sostegno del Branca. E magari se poi un po' di gente gli rompe le scatole, pure, che ne so, una canzoncina dopo. Ma andiamo avanti, questo è Port Royal, tutti i mercoledì, ancora itineranti, eh? Io mi prendo una pausa. Alla fine di una giornata così lunga e disperata trovo gran consolazione nella fermentazione, che sia bionda, rosso, ambrata, che sia d'orzo, lupolata, ora con moderazione scatta l'alcolizzazione. E allora datemi una birra, birra, birra, subito una birra. Voglio una pinta per cantar, un'altra pinta per ballar. Datemi una birra, birra, birra. Una pinta per cantar, un'altra pinta per sognar. Quando fa quel caldo e più caldo non si può, nella tua gola urla pietà. Subito una birra. c'è chi beve spritz, chi ordina un cocktail, chi un prosecchino, io cosa prenderò? Che sia cruda, che sia cotta, non più trota artigianale, che sia fatta dai traffisti o a livello industriale, quello che conta è che vinca sempre il bene contro il male. Birra, birra, birra, datemi una birra, una pinta per cantare, un'altra pinta per sognare, datemi una birra, birra, birra. Ehi, chi vuole una birra? Chi beve birra campa cent'anni. Pirates Radio, Port Royal, High Up on Babylon, tell them. Con la musica reggae, cerchiamo la nazione, siamo zingari reggae. Yes people, affittate le orecchie perché questa è Pirates Radio, Port Royal, High Up on Babylon, tell them. Stay in Calypso, rock and soul, let's copy the people, give me some more. Embashment, roots, thoughts, rub-a-dub, gypsy, gypsy reggae. We don't want no heavy drugs, peace and love in all the towns. No more shooting, no more guns, gypsy, gypsy reggae. Noi facciamo festa dalla sera alla mattina. Quando parte il circo non ci fermiamo più. Anima balcanica e raga mappena, dai e nella danza pure tu. Con la musica reggae scuotiamo la nazione, siamo zingari reggae, gypsy, gypsy reggae. Scecchiamo la nazione, siamo zingari reggae, gypsy, gypsy reggae, gypsy, gypsy reggae, gypsy, gypsy reggae. Fidi slackness, fidi gangsta, fidi violence in the yard. Homophobia, fidi rises, fidi prejudice, segregation, fidi rises, discrimination. Want love and good vibrations, gypsy, gypsy reggae. Noi facciamo festa dalla sera alla mattina. Quando parte il circo non ci fermiamo più. Anima balcanica e raga mappena, dai e nella danza pure tu. Ma che me stai a dire davvero? lo avverti sul programma. Però il settore è in crisi e non ci sono fondi, ma sai chi converrà, perché c'è tanta, ma tanta, ma proprio tanta, una montagna di visibilità. Se l'allero, ma che me stai a di, ma che me stai a di davvero, questa non se può sentire. Se, ciao cuore, aspettami che arrivo, a voglia, sicuro, ci sto venendo, guarda, se vediamo là. Aspettami, aspettami che arrivo. Senti questo. E ringraziamo anche Adriano Bono per lo speech, per l'amicizia. Andiamo avanti, ci andiamo a sentire Grisù. Vi ricordo l'appuntamento del 5 aprile, corteo e post corteo, che mi sta diventando ciccioso minuto dopo minuto. Volevano fare un deserto. Ci troveranno al nostro posto. È una rivoluzione dove non si balla. Non è una rivoluzione. Save the planet. Grisù, Anthony Johnson. We've got to save the planet. And me, we've got to save it, we've got to save the planet for you. Avietto, ricordi Anthony Johnson allo Zobar insieme ai buon vecchio fratelli di Vertical Sound, scusa, Holy Mount. Il cielo è inquinato e a nessuna ci interessa, i pesci muoiono, a nessuna ci interessa, i frutti sono malati, a nessuna ci interessa, quello che vi interessa è erario business. Dai, dai, dai, provaci anche tu, save the planet, il pianeta blu. Dai, dai, dai, fallo pure tu. Passa un po' grammore, un po' grammore, sempre più. E allora, dammana, dammana, dammana, dammana, dammana, sempre più. Dammana, dammana, dammana, dammana, dammana, sempre più. Right, dammana, dammana, dammana, dammana, dammana, sempre più. Mo, dammana, dammana, dammana, dammana, dammana, sempre più. We got to save the planet for you and me. We got to save the planet for you and me. Fai mancare respiro, sei come l'acqua fresca, con te c'ho il mondo in tasca. E se ti cerco nei pensieri miei, ti sento nell'aria e so dove sei. E ti vengo a cercare, conosco la strada. You are my number one, baby, tu mi mandi a rotta. E ti vengo a cercare, ti voglio vicina, solo con te tocco la cima. tuo profumo. Luce a te che non ha nessuno. Tu sei una magia, perché mi fai sognare ogni male porti via. È il tuo profumo. Luce a te che non ha nessuno. Tu sei una magia, perché mi fai sognare ogni male porti via. Favoloso è l'effetto che lei sempre mi fa. Seducente, ammagliante con il profumo che ha. D'arancia, del limone, del rosa o del mirtillo. Essenze prelibate, cose dell'aurum. Sì, una vera delizia, una vera bontà. Annuria la primizia, cinnaia volontà. Facciamo tutti festa, non poco de guida, non poco de guista. Saggiando ogni tipo di specialità. Se indica sativa, ma che sia di qualità. Se arriva dal giardino della nonna o di mamma. Dalle campagne nel Salento, sui balconi in appartamento. Eppure su tutte le terrazze di ogni centro città. È il tuo profumo. Luce a te che non ha nessuno. Sei una magia. Anch'io sostengo Pirate Radio e Port Royal. Yes, I. Boom! Luce a te che non ha nessuno. Tu sei una magia, perché mi fai sognare ogni male morire. Il gusto buono è sclopazza quando sono senza di te. Mamma, marimba perché hai urlato troppo lunga, ma piglia sulla caffè. Mamma, marimba perché, ma perché, gusto buono senza te. Ma perché, forse che sia la verità. Ogni bacio tu è una bocca di felicità. E il tuo profumo che mi ha fatto innamorare. È il tuo profumo. Luce a te che non ha nessuno. Tu sei una magia, perché mi fai sognare ogni male porti via. È il tuo profumo. Luce a te che non ha nessuno. Tu sei una magia, perché mi fai sognare ogni male porti via. Original Ragamuffin Mr. Grisù. Anch'io sostengo Pirate Radio e Port Royal. Yes, I. Boom! E ringraziando anche Grisù, ci andiamo a sentire appunto Reggae Tamorra. Etta Morra. Appena uscita, sentitevela, scaricatevela. Settimana prossima a Trento Roots. Non c'è una barriera, sa balla notte e giorno. Suona che sta musica, reggae. Sa battene barriere, suona notte e giorno. Reggae Tamorra Grisù. Non c'è una barriera, sa balla notte e giorno. Suona che sta musica, reggae Tamorra. Piace senza frontiere, tinto sangue ma scorra. Suona che sta musica, reggae Tamorra. E Jamaican, sono visto stile con vere paesan. Napolitan, e Jamaican, sono visto stile con vere paesan. Napolitan, e Jamaican, sono visto stile con vere paesan. Napolitan, e Jamaican, sono visto stile con vere paesan. Reggae, Jamaica, tarantella. Sienta che sto usando e siente come sono bella. Reggae, Jamaica, tarantella. Parlane passione, cultura, amore e guerra. Siete visto il ritmo che la trasa di ancora cada fa valigia. Non è solo un rumore cada saglio di piedi fino a tutti i capelli. Si zumba a balla, vedi come stai più bella che sta roba mia. Roba mia che sta roba mia. Roba mia che sta roba mia. Roba mia che sta roba mia. È napolitan, è jamaican. Sono visto stile a covere paesan. È napolitan, è jamaican. Sono visto stile a covere paesan. È napolitan, è jamaican. Sono visto stile a covere paesan. È napolitan, è jamaican. Sono visto stile a covere paesan. Thank you. anch'io sostengo Pirate Radio e Forte Royale. Potere barriere, piazza balla notte giorna, suona che sta musica, reggaeton d'amorra, viaggia senza frontiere, pinto sangue ma scorra, suona che sta musica, reggaeton d'amorra. Non te ne barriere, sa balla notte giorna, suona che sta musica, reggaeton d'amorra, viaggia sa frontiere di tu sangue ma scorra, suona che sta musica, reggae d'amorra. Siente che sto reggae che è giamaicana, insieme a che su stila che campana, trasferita danza balla pure tu, reggae d'amorra insieme a Grisù, reggae d'amorra insieme a Grisù, reggae d'amorra insieme a Grisù, reggae d'amorra insieme a Grisù, reggae d'amorra insieme a Grisù, reggae giamaica tarantella, siente che sto sound, siente come suona bella. Reggae, giamaica, tarantella, parlane passione, cultura, amore e guerra. Reggae, giamaica, tarantella, sienta che sto usando, sienta come suona bella. Reggae, giamaica, tarantella, parlane passione, cultura, amore e guerra. Reggae, giamaica, tarantella, sienta che sto usando, sienta come suona bella. Reggae, giamaica, tarantella, parlane passione, cultura, amore e guerra. Long side the humble people like my house, you know. My friend, you know. My crew. E ringraziamo anche Grisù per lo special. Vi invito a cercare Reggae Tamorra. Guarda Bombo Chun. E a proposito del Bombo Chun, Humble Beach, Puppa Rhino. Upon the mic, I never be stop ya. Alongside the humble people like my house, you know. My friend, you know. My crew, my family. You got to be humble, 'cause you live in the jungle. You follow the sample. You have to be thankful. Ultimi 9 minuti per me. Humble Beach, me now switch. Humble Beach. Reach. Appreciate the sun and the moon and the reef. What we receive it as a beautiful gift. The humble beach, me now switch. Humble beach, me now reach. Appreciate the sun and the moon and the reef. What we receive it as a beautiful gift. Every day you say you're the best. Better than the other, better than the rest. The one and only, nobody can test. Money, girl, success and sex. I feel so small when you sit on the throne. I'm not so envious about the things that you own. I don't like your car, I don't like your phone. Money in your pocket, but I see you alone. It's better to be simple, poor and free than send your soul for vanity. I love the sunset in front of the sea. That's where I wanna be, the humble beach. Me now switch, humble beach. Me now reach. Appreciate the sun and the moon and the reef. What we receive it as a beautiful gift. The humble beach. Me now switch, humble beach. Me now reach. Appreciate the sun and the moon and the reef. What we receive it as a beautiful gift. You could do anything. To get everything. I realize you will never satisfy until you get what you see on the advertise. I realize you will never satisfy until you find something beautiful in a sunshine. Follow me now. Happiness is under your feet, not on the website. Try to walk in my shoes to the wheel, see the humble side. If I have a candle, you want a spotlight. I have a kite, you need a satellite. Happiness is under your feet, not on the website. Try to walk in my shoes to the wheel, see the truth on the right. If I have a candle, you want a spotlight. I have a kite to play in humble.

siamo qua. A mio fratello Pietro. Sto sto grigiore per vedere com'è fuori stamattina se c'è il sole. Oggi cerco un tocco di colore. Saluto anche fantasia che ogni giorno in buon questo vecchio Valerio Renzi. Qualsiasi cosa accada, che a breve uscirà in libreria. Vada come vada, c'è un sound della sua strada che è fatta di sogni e di idee. Otello che con libro sul tempesta. Accada, a me. Vada come vada, Matteotti. C'è Otello la sua strada che gente seria. Viene da Roma, Roma se non la sa, tutta l'Italia sa guasta. Una dance sola al giorno non basta, il reggae piace come la pasta. Viene da Roma, Roma mo è festa, ah, ah. La guardia ormai non la resta, è tutto a posto, ha una richiesta, vuole Bergamo coi dreadlock in testa. La gente mi saluta con goccia come a Fallucia. Sta chiù lo sai che brucia come il pane con l'anducia. A Roma, Palermo, Bergamo lo sai pure a Perugia. Non amo, andiamo, c'è un sound e una via che se strucia. Non amo, conquistamo, non se spaventamo. Chicco tu c'è il pezzo, ma lui c'ha le bombe a mano. Giorno dopo giorno. E come le ultime volte siamo, e mo voto Otello come premier italiano. Mi piacerebbe, ma io come faccio un fognato? Piuttosto scappo alle Canarie e vi lascio al vostro destino. Detto questo, vi saluto. Ci sentiamo mercoledì prossimo. Ci vediamo venerdì in piazza. Domani in cattedrale, per chi vuole. Dai, Evie, ci sei? Rock on, baby. Baby, you set my soul on fire. Yeah. So come on and give me what my heart desire. Don't ever let this feeling grow cold. You're like a story that's never been told. La da da da da da da da da. Yeah. La da da da da da da. Questo è Port Royal. Cambia microfoni, cambia le selezioni. Un salutone a fratellone Otello Taueli. L'altro fratellone DJ Smash in Calabria. Rock on, baby. E un salutone a tutti gli amici e tutte le amiche delle varie chat Pirate Radio di Telegram e agli amici di Reggae Mania. What made you really go away? Then I would turn and say to myself, I wonder if you're really going to stay. Baby, don't leave me for another. Don't ever leave. Never leave me for another, yeah. 'Cause you are the sunshine of my life. E questo è il mood di Porto Royal, tutti i mercoledì dalle 21 alle 23, questa sera come alcune altre puntate, ognuno a casa sua, ma tutti con lo stesso obiettivo, quello di portare buone vibrazioni in queste che sono le due ore di relax totale. Proseguo la selezione e un pezzo che dedico a tutte le amiche e tutti gli amici del Branca, oggi appunto puntata dedicata esclusivamente almeno a quella che è il corteo a sostegno del Branca Leone venerdì 5 di aprile. Something fi do, oh, that simple mean that love you not true, cause only when you want a me hear you shout I love you. Tell me where all the passion gone, all of the warmth. Tell me where is all of the tenderness. And here is something else that's been bugging me for so long. Tell me this, tell me if love's so nice, tell me why it hurts so bad. Badang, if love's so nice, tell me why I'm sad. Me sing again. If love's so nice, tell me why it hurts so bad. Badang, if love's so nice, tell me why I'm sad. Me sing sing again. Well, why if your nails fi do a me, bills fi pay a me, ear fi do a me, and you're making fun of me, and I'm the one with the J-O-B. So baby, why won't you give me some TLC? And there is rumors going around, so when I'm out of town, there is a man where I'm supposed to be. Too late to be begging on your knees. Hand me my keys and let go of me short sleeve. You can go do as you please. You can go talk to John, Peter or Steve. Because if love's so nice, tell me why it hurts so bad. Badang, if love's so nice, tell me why I'm sad. Me sing again. If love's so nice, tell me why it hurts so bad. Badang, if love's so nice, tell me why I'm sad. Me sing again. No man no want to live a lonely life, of that I'm sure. But me nah go second less when I know I deserve more. Every day from me vessel when me love you come and pour it out. You pour it out. And when me ready for some my years, you lock me out and change your route and then you run your mouth. But you don't know what love is about, tell. Well, I am sick and I'm tired and I'm sick. I don't want no more of this. Because if love's so nice, tell me why it hurts so bad. Badang, if love's so nice, tell me why I'm sad. Me sing again. If love's so nice, tell me why it hurts so bad. Badang, if love. E belli i tempi del Brancaleone, del Topatop, tutti i giovedì, che hanno animato per anni i giovedì appunto del Branca, ma bello anche il Branca adesso, pieno di studenti che animano gli spazi tramite la sala prove, i collettivi, e, insomma tanta roba, tanta gioventù, cultura dal basso. E questo purtroppo il comune vuole togliere quello che può essere una fonte di ispirazioni per molti spazi che sono, diciamo, abbandonati. Quindi noi proseguiamo questa serata a sostegno appunto del corteo del 5 di aprile per il Brancaleone. Can I get a glimpse of you? Don't tell me no, not this time. Yeah, yeah, baby girl, I cannot hear myself. I want you and I need no one else. Tell me the place, please tell me the time. Baby, this suspense is killing me, yeah. Can't wait forever. And if you let me slip away, yeah, it wouldn't be so clever. So, baby, can we meet? So I can light your fire. Baby, can we meet? 'Cause I've got what you want and you've got what I need. Yeah, baby, can we meet? So I can light your fire. Baby, can we meet? Come on. No, I love ice, quit stalling, girl. You say you're for me, you're falling, girl. But action speaks louder than words. Yeah, is there something you should be telling me? Is there someone out there who has the key? The key to your heart. Talking on the phone won't do. I need to see your body. You have me alone so long. And that ain't funny. So, baby, can we meet? So I can light your fire. Baby, can we meet? 'Cause I've got what you want and you've got what I need. Yeah. Baby, can we meet? So I can light your fire. Baby, can we meet? Come on. Wait through the summer, to the winter, to the springtime, to the fall, to the sleet and the snow, tornado and the storm. I wanna hold you and touch you, girl. I want to know you by your walk. I wanna be there for you. So girl, enough of this talking. Baby, can we meet? So so I can light your fire. Baby, can we meet? I've got what you want, and you've got what I need, yeah. Baby, can we meet? So I can light your fire. Baby, can we meet? 'Cause I've got what you want, and you've got what I need, yeah. Baby, can we meet? Come on, come on, come on, baby. Baby, can we meet? 'Cause I've got what I want, and you got what I need in you. Baby, can we meet? So I can light your fire. Baby, can we meet? 'Cause I've got what I want, and you got what I need in me. Baby, can we meet? Come on, come on, yeah. Get a glimpse of you. Don't tell me no, no, not this time. Yeah, baby girl, I cannot help myself. Questa la riprendo e la dedico al mio fratellone Taueli in regia. A tutti i guerrieri! Still love that you. the snare. We all are here to purely have some fun, no tensing up the atmosphere. This type of life don't come so easy. Everybody wants something from me. Didn't even ask for your opinion. Give me my respect to receive it. Instead of pointing fingers at me, rise up your gun fingers and praise me. Rise up your glass and keep on grooving. No truer words ever been spoken. My mama told I grow with I and I. Don't think you better than I and I. Who is this butthead? Come up here and killing the vibe. Talking to love but don't know the rhyme. No tolerance for bad vibes around here. Turn up the bass and hit the snare. We all are here to purely have some fun. No tensing up the atmosphere. Pure fun, we go rum pa pa bum. Pure fun when we jump on TV dumb. Pure fun, fire bun bun bun. People swapping for weeks, help me mash up the sound. Pure fun, we go rum pa pa bum. Pure fun when we jump on TV dumb. Pure fun, fire bun bun bun. People swapping for weeks, help me mash up the sound. Pure fun, we go at the door and come in. Without the names, we're all just human. Need each other, this science is proven. You better smile and keep on moving. My papa told her, don't let anger ride. Give only love to I and I. Give only joy and don't you show your pride. Let I and I enjoy the high. No tolerance for bad vibes around here. Turn up the bass and hit the snare. We all are here to purely have some fun. No tension of the atmosphere. Tell me mash up the sound. Pure fun, we go rum pa pa bum. Pure fun when we jump on TV dumb. Pure fun, fire bun bun bun. People talking for me, tell me mash up the sound. Pure fun, when me people sing along with me aloud. Better why, better clown, come dance under the sun. Pure fun, when selector run the sound system. People forget all the hate and spread love around. Pure fun, fresh style. Mommy and daddy always tell you, be careful of the friends them that you keep, because the wrong one them will get you in trouble. Why'd you do me like that? How you carry on? When you deal with ignorance, before they know your worth, they know your reputation. Are you stuck in the same situation? We tell them, look, man a flip-flop, a shot himself in the foot. I claim say him a bad man and him have the people shook. We a brother, so the people put me in the same book. Me a break and they standing by George Nooks. Girl, I teach your bad, say super, can't say you are boobs. Can't trust a jar of weed, say man, I teach you like crook. You need a new outlook, it's not turn out too good. Not turn out too good. Look how long I tell you, don't go and pick up that. I know you pick it on the road, boy, I go want it back. Them the man, them now go ask say them the man the fire shot. With dip on the ends in a the chill spot, cool and relax. Them a hear a can screech. And the man them pull up up here. Braga daga dag, we have to get down flat. Johnny try and run and take two in a your back. Big time cricket on, but no can pick up the bat. The family not stand for that. I feel look a strap, now we have to rally back. Why you do me like that? How you carry on like that? Why you acting like that? You know we don't be Ricordiamo inoltre che la sede di Pirate Radio è in quel del Brancaleone, sede anche storica di Radio Popolare Roma. Oltre a questo, il Brancaleone, all'interno del Brancaleone si svolgono due attività di gruppi con ragazzi di disabilità, insomma tanta roba, tanta cosa che viene prodotta dal basso, collaborazioni appunto con cooperative, associazioni, realtà del territorio e tempi difficili, quindi ci si riunisce ancora una volta tutti insieme, anche perché purtroppo riguarda altri spazi di Roma come Intifada, come Palestra Popolare di San Lorenzo, Spin Time, Brancaleone, insomma sono tante le realtà che sono chiamate in questo periodo a dimostrare più che mai che la cultura da basso è quella che viene fatta veramente col cuore e soprattutto che porta a grandi risultati. Yeah, I am a soldier, a real, real soldier. Hey, I am a soldier, I'm hungry like Fontan Mocha. Yeah, I am a soldier, a real, real soldier. Yeah. Wanna spend the rest of my life with my people like soldier. Innocent people, I'm not shooting and sniping. Rich man watch, poor man a fighting. I wonder why they find it so exciting. Cause I don't wanna die for your money. I don't wanna die for your troubles and borderlines. I don't wanna die for your money. My life is full of sign. Fuck your dollars. Sponsor your war, who buy your guns? Bloody consequences of all your incomes. You winter my life, no mama on the phone. I wonder if by spring I will come back home. Time is so cold, my guns on the road. I wonder for how much they sold my soul. Time is so cold, with my guns on the road. Half of the story has never been told. Rich man watch, and poor man a fighting. Innocent people under shooting and sniping. Rich man watch, poor man a fighting. I wonder why they find it so exciting. Cause time is dangerous. We gotta get it together. Innocent people under shooting and sniping. Rich man watch, poor man a fighting. I wonder why they find it so exciting. Cause I don't wanna die for your money. I don't wanna die for your troubles and your borderlines. I don't wanna die for your money. My life is full of signs. Fuck your dollar sign, yeah. I'm hungry like Fontan Mocha. From the top show it. Show them my love is like an AK bullet. Give me, do it, master them and do it. Drop this, every day man, I light up the fuel. People them, I know them, I'm ready for the jumping party time. And everybody them, I scan. We ready, we steady, we dip on the go. The people then jump up just like a yo-yo. And SOSO, me say that I so with the staff the party and staff the show. From you see the logo and you see the promo. Me say then I your turn, you feel come, yeah, the open. So make it a dead and nobody say no. Me say real big team, man, there with the skanky. Real big team, man, them with the skanky. Just make you know that I'm here top ranking. Ride like tuna, you crush like lightning. Valley ranking, and you both get a spanking. Feel no weird, then nobody call your ranking. Papa now, bro, you know who I'm make. Come in a place and he dance it up in the cause, yes, we are heavy. Slimmer, me thinner, me ride the redeemer. So play it is your one cause it a wicked something. Me see me harder, me rocker, me know a off each other. So play it from the top until the very last drop. Me see me slimmer, me thinner, me ride the redeemer. So play it is your one cause it a wicked something. the sky. Individual society applauding. You can ask anybody where them get them starting. But no politician take a donation. So no criminal will never see a station. Never see a cell, not even a courthouse. But every Sunday we see them take a... Piano piano ci avviciniamo alla chiusura puntata di questa che è Port Royal, tutti i mercoledì dalle 21 alle 23. Police cancel operation. Cause no real bad man a go station. Now if you check your situation, a blood money running nation. Come take a look in a Jamaica. Injustice in the place now. If what you see no really face you, then you want the problem what we face to. Was about to buy your next 60 now. Maybe then I never have to be a prisoner. Maybe then I could have not turn in my firearm. Police could not come remand. Come me like me run an army. Hey. Was about to be a politician too. Maybe then I could have make any decision. Look, maybe then I make $100 million disappear. Then me act like me no care. Watch your vote me back in there. Hey. Because this sad reality. In a Jamaica say your status and your salary. Man, the road I carry one whole heap of felony. But them have a family, a boost up the economy. So, police cancel operation. Cause no real bad man a go station. Hey. Now if you check his situation, a blood money running nation. Come take a look in a Jamaica. Injustice in the place now. If what you see no really face you, then you are the... It's out of many, but a one set of people feeling it. How that real society, you agree to this. Things are revealed, the garbage, the machine spit. No smoke screen, a river can no conceal it. Now the system failing. The gap a get wider. A matter of time before a total divide ya. You cross the line, man, draw quick to remind you. If you build it on crime, then crime will have to find you. And that's how it's been always. That no frustrate you like it do to me. How much dead baby they over Jubilee? How much youths did 10 when them running at Tivoli? Now them 16 heart fry head fricassee. So, police cancel operation. Cause no real bad man a go station. Hey, now if you check his situation, a blood money running nation. Hey. Come take a look in a Jamaica. Injustice in the place now. If what you see no really face you, then you want the problem what we face to. Where I'm from, ain't nobody. everybody follow God. So everywhere me turn, everybody look sad. Ah, everybody facing the struggle, struggle, struggle. Yeah. Not answer what me say east to the west. Some got a lot what me say, some got the less. Yes, you could have bought it, I even not the dread. Everyone fear it happiness. Ay, ay, ay. Full of meditation, stop the stress. Life is really not about who got it best. Yes, give some to the needy out of your harvest. From Tata see that, Tata bless. Yes, boom. I know it's hard when you try to look a job. Nothing to be found, so you steal and rap. Ah, everybody fighting the struggle. Where I'm from, ain't nobody follow God. So everywhere me turn, everybody look sad. Ah, everybody facing the struggle, struggle, struggle. Members say you can't serve two masters. If you do, you end up in a disaster. Do you really want the joy and laughter? Seek time, everything will come after. Cha help those who help themselves, that are true. Keep on doing good and goodness follow you. Or else I no corner, no color. So tell me now, what you gonna do? Everybody's in the struggle. So everybody have the hustle. I know it's hard, but you have to get up and I pray to God. I, everybody's in the struggle. So everybody have the hustle. Yeah, yeah, yeah, yeah. I know it's hard when you try to look a job. Nothing to be found, so you steal and rap. Ah, everybody fighting the struggle. Where I'm from, ain't nobody follow God. So everywhere me turn, everybody looks sad. Ah, everybody facing the struggle, struggle, struggle. Yeah. You got to keep your head up. You got to keep your head up. In a struggle, in a struggle. E siamo arrivati ai saluti finali. Buonanotte a tutti e tutte. Ci vediamo venerdì al Cortile del Branca e a seguire in bolla un po' di session, un po' hip hop, un po' soprattutto reggae. Quindi a venerdì. Yo! Virtus another place I tell ya! Special dedication for Fire from Babylon! Big Sound out of Roma, Sierra Maestra, Hotel Lotto Willy, Osh, Smash, Hilario! Step up and play the rhythm! Come! Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire from Babylon a play! Fire, fire, fire, fire! Fire, fire, aye. Music catch a fire, fire from Babylon make me inspire. So music make the fire blaze. Music catch a fire, fire from Babylon brings you higher. Give me the fire blaze. You are my sunshine, fire from Babylon I'm yours. Food for my heart and soul, the only sound I need some more. Massive, can you feel the love? I come fire from Babylon, I play. Massive, can you feel the love? Aye, massive, can you feel the love? I come fire from Babylon, I play. Massive, can you feel the love? Play a 45, big sound, no big surprise. Into the overdrive, I see the people get mad and I go multiply. Real sound, I find. Miss a strip, feel no bit polite. Nothing in my blind, your mind, but fire from Babylon, I unify. You know this sound can bring you higher. Fire from Babylon, I play. Your is on fire. Switch up on a bass, put up your lighter. Big sound, I play tonight. You are my sunshine, fire from Babylon, I'm yours. Food for my heart and soul, the only sound I need some more. Hey, massive, can you feel the love? I come fire from Babylon, I play. Massive, can you feel the love? Hey, massive, can you feel the love? I come fire from Babylon.